Capitolo 96esimo. Le fatiche di Teseo. Teseo decise di liberare dai banditi la strada costiera che correva da Trezene ad Atene. Egli non provocava risse, ma si vendicava di chiunque lo molestasse, infliggendo al colpevole la punizione che si meritava, come usava fare Eracle. A Epidauro, Perifete lo zoppo, gli sbarrò la strada. Perifete, che taluni dicono figlio di Posidone, altri figlio di Efesto e Anticlea, soleva uccidere i viandanti con un'enorme mazza di bronzo, di qui il suo soprannome di Corunete o Uomo dalla Mazza. Teseo gli strappò codesta mazza dalle mani e lo percosse a morte. Poi, soddisfatto dal peso e dalle proporzioni di quell'arma, la portò sempre con sé, e benché egli fosse riuscito a evitarne gli esiziali colpi, la usò senza fallire mai il bersaglio. Nel punto più stretto dell'istmo, dove si vedono sia il golfo di Corinto sia il golfo Saronico, viveva Sini, figlio di Penone, o come altri dicono figlio di Polipemone, e di Silea, figlia di Corinto, il quale si vantava di essere un bastardo di Posidone. Egli era stato soprannominato Piziocante, ossia colui che piega i pini, poiché aveva tanta forza da piegare la cima di un pino finché toccasse terra. Spesso si rivolgeva agli ignari passanti perché gli dessero manforte, ma poi all'improvviso mollava la presa e, mentre l'albero scattava di nuovo verso l'alto, chi si era prestato ad aiutare Sini faceva un volo in aria e rimaneva ucciso, precipitando a terra. Oppure quel malvagio piegava contemporaneamente le cime di due alberi vicini e legava a ciascuna di esse un braccio della sua vittima, affinché il corpo dell'infelice fosse lacerato mentre i pini riassumevano la primitiva posizione. Teseo lottò con Sini, lo vinse e fece a lui ciò che egli aveva fatto agli altri. Ed ecco che una bella fanciulla fugge nascondendosi in un boschetto di giunchi e di asparagi. Teseo la inseguì e, dopo lunghe ricerche, la trovò che invocava le piante, promettendo di non bruciarle né distruggerle mai se l'avessero celata agli occhi del suo inseguitore. Quando Teseo le ebbe promesso di non usarle violenza, la giovane acconsentì a uscire dal suo rifugio e confessò di essere la figlia di Sini, Perigine. Perigine si innamorò di Teseo a prima vista e gli perdonò di aver ucciso il suo odioso padre. In seguito gli generò un figlio, Melanippo. Teseo la diede poi in sposa a Deioneo, Lecalio. Il figlio di Melanippo, Iosso, emigrò in Caria, dove divenne l'antenato degli Iossidi, che non bruciano né i giunchi né gli asparagi, ma li venerano entrambi. Altri tuttavia dicono che Teseo uccise Sini molti anni dopo e riconsacrò a lui i giochi istmici fondati da Sisifo in onore di Melicerte, figlio di Ino. In seguito, a Crommio, Teseo cacciò e uccise una terribile e mostruosa scrofa, la quale aveva fatto tali stragi che la gente del luogo non osava più uscire di casa per lavorare i campi. Questa bestia, che ebbe nome dalla vecchia che l'allevò, si dice fosse figlia di Tifone ed Echidna. Sempre seguendo la strada costiera, Teseo giunse a certe rocce scoscese che sorgevano a picco sul mare ed erano il rifugio del bandito Scirone. Taluni dicono che Scirone fosse un corinzio figlio di Pelope o di Posidone, altri che egli fosse figlio di Enioca e Caneto. Scirone soleva sedersi su una roccia e costringeva i passanti a lavargli i piedi, e quando essi avevano finito di lavarglieli, con un calcio li scaraventava in mare, dove una gigantesca testuggine li divorava. Le testuggini somigliano alle tartarughe, ma sono più grandi e hanno pinne in luogo di zampe. Teseo si rifiutò di lavare i piedi di Scirone, lo sollevò dalla roccia e lo buttò in mare. I megaresi tuttavia sostengono che l'unico Scirone con cui Teseo venne alle mani era un onesto e generoso principe di Megara, padre di quell'Endide che sposò Eaco e gli generò Peleo e Telamone. Aggiungono che Teseo uccise Scirone dopo la conquista di Eleusi molti anni dopo e celebrò in suo onore i giochi istmici sotto il patronato di Posidone. La scogliera di Scirone sorge presso le rocce Molurie e più sopra corre il sentiero di Scirone, che egli tracciò quando comandava l'esercito di Megara. Un violento vento di nord-ovest che soffia da quelle alture verso il mare è chiamato Scirone dagli ateniesi. Ora Sciron significa parasole e il mese di Sciroforione è così chiamato perché durante la festa di Demetra e Core, il dodicesimo giorno di Sciroforione, il sacerdote dell'Eretteo porta un parasole bianco e la sacerdotessa di Atene, Scira, ne porta uno simile nella solenne processione che si snoda lungo l'Acropoli. In quella occasione il simulacro della dea è imbrattato di sciras, una specie di gesso, per ricordare la bianca statua che Teseo le consacrò dopo la sua vittoria sul Minotauro. Continuando il suo cammino verso Atene, Teseo si imbatté nell'arca del Cercione, che taluni dicono figlio di Branco e della ninfa Argiope, altri figlio di Efesto o di Posidone. Egli soleva sfidare i passanti a battersi con lui e poi li stritolava tra le sue braccia possenti. Ma Teseo lo afferrò per le ginocchia e, con grande diletto di Demetra che assisteva alla lotta, lo scaraventò a terra. La morte di Cercione fu istantanea. Teseo faceva più affidamento sulla sua abilità che sulla sua forza, poiché egli aveva codificato l'arte della lotta libera, di cui nessuno fino a quel giorno aveva compreso l'importanza. Il luogo dove si svolse la lotta con Cercione si vede ancora presso Eleusi, sulla strada di Megara, presso la tomba della figlia di Cercione, Alope, che si dice fosse stata violentata da Teseo stesso. Raggiunta Coridallo in Attica, Teseo uccise il padre di Sini, Polipemone, soprannominato Procruste, che viveva ai margini della strada e aveva in casa sua due letti, uno grande e uno piccolo. Accolti i viandanti, faceva sdraiare quelli di piccola statura sul letto grande e poi ne slogava le membra per adattarle alle proporzioni del giaciglio, mentre sistemava quelli alti nel letto piccolo, amputando poi le gambe che sporgevano dal letto stesso. Taluni dicono invece che egli si servisse di un solo letto e allungava o accorciava i suoi ospiti a seconda del caso. Teseo lo ripagò con la stessa moneta. L'uccisione di Perifete fu inventata per mettere nelle mani di Teseo una mazza di bronzo simile a quella di Eracle. Perifete è descritto zoppo perché era figlio di Dedalo, il fabbro, e i fabbri venivano spesso azzoppati ritualmente. Poiché al vento del nord che piega le cime dei pini si attribuiva il potere di fecondare donne, animali e piante, Pizio Cante viene descritto come il padre di Perigine, una dea dei campi di grano. Il rispetto che i suoi discendenti dimostrarono nei riguardi dei giunchi e degli asparagi selvatici ci fa supporre che i canestri sacri portati in processione durante le tesmoforie fossero appunto intessuti con queste piante e ne venisse proibito l'uso domestico. La scrofa Cromionia, alias Fea, è la bianca scrofa Demetra, il cui culto fu soppresso molto presto nel Peloponneso. Il fatto che Teseo si allontanasse dal percorso stabilito per uccidere una semplice scrofa mise in imbarazzo i mitografi. Igino e Ovidio, in verità, trasformarono la scrofa in cinghiale e Plutarco la descrive come una donna bandito, il cui vergognoso comportamento le meritò il soprannome di scrofa. Ma nell'antico mito gallese essa figura come la vecchia scrofa bianca Hen Wen, custodita dal porcaro o mago Col Eb Colfrevor, che introdusse in Gran Bretagna il frumento e l'apicoltura. E il porcaro mago Eubuleo veniva commemorato durante le tesmoforie a Eleusi, quando in suo onore si gettavano maiali vivi in un baratro. I loro resti decomposti servivano più tardi per fertilizzare il grano appena seminato. Le leggende di Scirone e di Cercione si ispirano evidentemente a una serie di raffigurazioni che illustravano la cerimonia del lancio del sacro farmaco in mare dall'alto della roccia bianca. Il primo eroe che trovò la morte in quella località fu Melicerte, cioè l'Eracle Melkart di Tiro, che pare fosse stato privato degli attributi regali, mazza, pelle di leone e coturni, e munito di ali, uccelli vivi e parasole per rallentarne la caduta. Ciò ci fa supporre che Scirone, descritto mentre si prepara a scaraventare un viandante in mare con un calcio, sia il farmacos che sta per affrontare il suo destino durante le sciroforie, che si celebravano nell'ultimo mese dell'anno, e cioè a mezza estate. La seconda scena, descritta come la lotta tra Teseo e Cercione, doveva mostrare lo stesso farmacos sollevato da terra dal suo successore, come si vede nella terracotta del colonnato reale ad Atene, mentre la sacerdotessa della dea assiste con compiacimento alla scena. Si tratta di una situazione mitologica piuttosto comune. Eracle, ad esempio, lottò con Anteo in Libia e con Erice in Sicilia. Odisseo lottò con Filomelide a Tenedo. Una terza scena, interpretata come la vendetta di Teseo su Scirone, doveva mostrare il farmacos che precipita nel vuoto con il parasole in mano. In una quarta egli si trova ormai in mare e il parasole gli galleggia accanto sulle onde. La supposta testuggine marina pronta a divorarlo era indubbiamente il parasole, poiché non vi è traccia di un culto attico della testuggine. Il secondo mitografo vaticano narra che fu Dedalo e non Teseo a uccidere Scirone, probabilmente perché vi era un rapporto mitico tra Dedalo e il farmacos rituale del re Pernice. Tutte queste imprese di Teseo paiono legate le une alle altre. I grammatici associano il parasole bianco con un simulacro in gesso di Atena. Ciò richiama alla mente le bianche bambole farmacoi chiamate argivi, uomini bianchi, che venivano gettate nell'acqua corrente una volta all'anno a maggio in occasione della purificazione dei templi. E anche le bianche focacce a forma di maiali, fatte con farina mista a gesso, che nelle tesmoforie sostituivano i resti dei maiali gettati nella voragine di Eubuleo per non privarne i sacri serpenti, come spiega lo scoliasta dei dialoghi delle Etere di Luciano. Le feste sciroforie facevano parte delle tesmoforie. Tes ha il medesimo significato in tesmoforia e in Teseus, e cioè pegni depositati nei canestri intessuti di asparagi selvatici e giunchi che Perigine consacrò. Si trattava di pegni fallici e la festa aveva carattere erotico. Ciò era giustificato dalla leggenda di Teseo che seduce Perigine e di Ermete che seduce Erse. Il gran sacerdote dell'Eretteo reggeva un parasole perché egli presiedeva al culto del serpente e gli incarichi religiosi dell'antico re passarono nelle sue mani quando la monarchia fu abolita, così come accadde a Roma col sacerdote di Giove. Il nome di Cercione è in rapporto con il culto del maiale, così pure la sua ascendenza. Il nome di Branco si riferisce al grugnito del maiale e Argiope è un sinonimo di Fea. Fu senza dubbio Teseo, figlio di Posidone, che violentò Alope, vale a dire egli soppresse il culto della Megarese dea lunare nella sua Epifania di Volpe. Sini e Scirone sono ambedue descritti come l'eroe cui furono dedicati i giochi istmici. Il soprannome di Sini era Pizziocante e Scirone, come Pizziocante, era un vento di nord-est. Ma poiché i giochi istmici furono fondati in origine per onorare la memoria di Eracle Melkart, la violenta morte di Pizziocante pare ricordi la soppressione del culto di Borea ad Atene, culto che si rinnovò tuttavia dopo le guerre persiane. In tal caso i giochi istmici sarebbero analoghi ai giochi pitici, fondati in onore di Pitone, che era sia il vento fecondatore del nord, sia l'ombra del re sacro ucciso dal suo rivale Apollo. Inoltre, Procruste, secondo Ovidio e secondo lo scoliasta dell'Ippolito di Euripide, era soltanto un altro soprannome di Sini Pizziocante, e pare che questo Procruste fosse un personaggio di fantasia inventato per interpretare il tema familiare di qualche raffigurazione iconografica. I capelli del vecchio re, sia esso Sansone, Pterelao, Nisocure, Liulou o comunque si chiamasse, vengono legati alla spalliera del letto, mentre il suo rivale avanza con l'ascia in mano per ucciderlo. Teseo e i suoi elleni abolirono l'usanza e preferirono gettar giù il vecchio re dalle rocce molurie. Inoltre riconsacrarono i giochi a Posidone a spese di Ino, poiché Ino era uno dei più antichi appellativi di Atena.